non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? Buongiorno Deborah, buona festa della Repubblica, come stai? Anche a te, tutto bene, grazie. In gioco c'è la vita, qua in gioco c'è una bella indennità, un bel bonus, e qua sono un po' più di mille quelli che, come dire, hanno accolto con disappunto dei dinieghi da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rispetto alle richieste. Cosa è successo e soprattutto cosa ci racconta il Sole 24 Ore stamattina, Mauro? Allora, questa mattina nelle pagine Norme e Tributi, dove spesso appunto troviamo queste notizie puntuali di servizio, Matteo Prioschi, che è una voce anche nota ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ci segnala la diffusione di un messaggio molto importante dell'INPS che riepiloga tutta una serie di indicazioni per le indennità da Covid, da coronavirus. Allora, è un po' complicata la cosa, quindi cara Deborah, sì, mettiti comoda, faccio lo stesso, prego, invito anche a Carmelo Lauricella, che è di là dalla regia, anche lui molto repubblicano, pronto sempre alla bisogna, e al Pauci Crinito. Invece ieri avevamo un multi Crinito Danilo Di Trani, oggi il Pauci Crinito invece Guido Scotti, che è dall'altra parte in assistenza a Marco Lombardo, naturalmente, che lo sorveglia da remoto. Allora, mettiti comoda, dicevo, perché? Allora, che succede? Che INPS ci ha fatto sapere che circa 42.000 tra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l'indennità Covid-19, quella del mese di marzo, perché sono state riesaminate d'ufficio le loro domande che in precedenza erano state respinte. Quindi per riesaminate e anche un po' riesumate, insomma, perché erano cadute lì un po', se ci sembravano un po' morte nel dimenticatoio dell'INPS, invece sono state ripescate. Allora, questi 42.000 sono suddivisi in 19.000 titolari di assegno ordinario di invalidità, 23.000 per i lavoratori stagionali. Quindi queste domande saranno messe in pagamento sia per marzo e sia poi per aprile. Chi ha un assegno di invalidità e non ha ancora fatto domanda potrà fare domanda. Prima era incompatibile la richiesta, adesso lo è diventata invece compatibile. Potrà fare domanda, ripeto, chi ha assegno di invalidità e non ha ancora fatto la domanda per quello di marzo potrà farlo fino a lunedì 8 giugno. Poi domani però, 3 giugno, è l'ultimo giorno per presentare la domanda per una delle indennità di marzo, il primissimo bonus. Ti sei già perduta, Deborah? Sì, guarda. Allora, per fortuna che è tutto scritto nero su bianco, per cui chi avesse del tempo... Se leggete Matteo Prioschi tutto vi sarà chiaro. Allora, se qualcuno non avesse ancora provveduto, ha ancora tempo fino a domani. Se però titolare di assegno di invalidità, come abbiamo detto, può aspettare fino all'8 giugno, cioè lunedì prossimo, e anche chi fosse beneficiario del reddito di cittadinanza e ha diritto di un'integrazione per aprile, un'integrazione al reddito di cittadinanza, ecco, allora può farlo fino all'8 giugno. E infine veniamo a coloro che in qualche modo mi sono più cari. Tu sai, Deborah, che io mi sono un po' appassionato alla vicenda di persone, molti ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto dicendo: ma io avevo tutte le caratteristiche, ho presentato la domanda anche molto tempestivamente, primo giorno, secondo giorno, e non ho visto nulla. Ci eravamo proprio focalizzati sull'aspetto del tempestivamente. Non è che, avendo fatto la domanda a tutti, temendo il click day nelle primissime ore di apertura della piattaforma da parte dell'INPS, fosse caduta nel vuoto proprio la domanda, proprio per il fatto che ce ne fossero migliaia in quelle ore? E che cosa è successo invece? Che in realtà l'INPS ha scoperto che qualche domanda andava integrata, e quindi si riapre un po' l'opzione per coloro che hanno visto cadere nel vuoto la richiesta, ma tutto sommato hanno tutti i requisiti per ottenere l'indennità da 600 euro. E quindi quanto tempo c'è per come dire, un po' sistemare la propria situazione? Allora, fino al 21 di giugno si può chiedere di riesaminare la domanda che è stata presentata e rifiutata. Come si fa a scoprire se è stata rifiutata? Allora, il rigetto di queste richieste è stato comunicato, dice l'INPS, agli interessati ed è visibile nella sezione esiti del servizio online indennità 600 euro. Poiché i motivi di rigetto possono essere diversi, vi sono dei motivi di rigetto che possono essere superati semplicemente segnalando all'istituto che si è sbagliato, questo è un po' il senso, quindi è la cosiddetta autotutela, quando l'amministrazione appunto si sbaglia e si corregge da sola perché si accorge di aver sbagliato. Se no bisognerà andare per le vie giudiziarie se si ritiene di aver ragione, ma l'INPS invece non condivide il nostro convincimento. C'è comunque tempo, 20 giorni appunto, fino al 21 giugno. Il termine e tutte queste cose sono raccolte, lo dico per gli appassionati come me della materia, nel messaggio 2263 diffuso dall'INPS nella giornata di ieri e oggi appunto riassunto brillantemente da Matteo Prioschi sulle pagine del Sole 24 Ore. Ma se anche da sei Mauro perduta, Meazza per due di denari, direi, no, ma io sono brillantemente. Sono solo un modesto dicitore di quanto Matteo e la stessa, e lo stesso istituto hanno diffuso. Di che parliamo oggi di bello? Allora, oggi è il 2 aprile, sì, il 2 aprile, con no, buonanotte, è il 2 giugno, sì? E quindi molti di noi, diciamo, in tempi non sospenti, magari un anno fa, se si fossero create le medesime condizioni, avrebbero così organizzato un bel weekend lungo, no? Proprio per beneficiare al meglio di questa giornata. Quest'anno non è possibile, quindi ieri tutti hanno regolarmente lavorato, molti oggi stanno regolarmente a casa. Allora, che cosa è successo? Perché ho fatto tutta questa intro un po' farlocca? Per parlare di tempo libero e per parlare soprattutto di tutti coloro che in questi mesi avrebbero dovuto viaggiare perché avevano organizzato appunto nei mesi passati weekend, viaggi, trasferimenti e spostamenti, ma non hanno potuto appunto proprio farli questi viaggi perché il Covid ci ha imposto, come sapete, con il lockdown di rimanere bloccati in casa. Allora, se il coronavirus e l'emergenza che questa situazione ha determinato vi ha imposto di annullare un viaggio già prenotato, come sapete si sono aperte tutte le possibilità di rinegoziare con la propria agenzia, con il proprio intermediario, le condizioni di questo viaggio. I provvedimenti recenti dal Cura Italia al decreto rilancio hanno chiesto al settore del turismo di riconoscere ai viaggiatori, ai propri clienti, il cosiddetto voucher, che da ieri sappiamo si chiama tax credit. Mauro, mi sbaglio? No, non ti sbagli. Ecco, e però che cosa è successo? Che nel frattempo le associazioni dei consumatori si sono un po' impermalite e hanno detto, scusate, va bene il titolo di viaggio, il voucher per riprogrammare la propria vacanza, ma se il cliente chiede di essere totalmente rimborsato perché non ha la convinzione di poter fare la medesima vacanza, di poter riprogrammare un viaggio, una vacanza appunto nella stessa località, e allora voi dovete riconoscere anche il liquido, no? Dovete riconoscere il rimborso integrale. Apri di cielo, lì si sono scatenati già tutti i possibili contenziosi e soprattutto di recente è intervenuta anche l'antitrust nel nostro paese che ha detto no, anche la Commissione europea ha raccomandato di riconoscere al cliente la possibilità di avere un rimborso e quindi noi siamo d'accordo e quindi governo e Parlamento muovetevi e quindi date anche questa opzione ai clienti. Io l'ho fatta un po' pasticciata, ma spero di essere stata abbastanza chiara. Il punto è che la situazione non è chiara per nessuno, Mauro. E no, perché la sostanza è questa. Allora, secondo la legge, voucher e nient'altro, ma secondo appunto le raccomandazioni non sono per adesso cose di imperio, della Commissione europea e dell'antitrust, deve esserci invece la possibilità di scegliere. E allora, come si fa a far combaciare queste due esigenze che sono un pochino in conflitto? Non lo sappiamo ancora, ma cerchiamo di scoprirlo questa mattina. Se siete interessati, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Però voglio dirvi anche che prima parliamo di un altro tipo di rimborso, voucher, non mi voglio più sbilanciare, che è quello relativo invece alle attività sportive, palestre, piscine e quant'altro, perché anche quelle appunto, come sappiamo, si sono fermate. E allora che ne è stato e che ne sarà degli abbonamenti magari pagati, di solito diciamo così, in palestra ad esempio. Io sono uno che ha finanziato parecchie palestre nella sua vita non sfruttandone assolutamente le strutture. Molti fanno così, vedo che anche Carmelo Lauricella ride, perché secondo me anche lui è uno dei soci delle palestre che però poi vogliono lasciare le strutture intatte, insomma non vogliono consumare macchine e attrezzature. Io invece posso fare finta di telefonare all'800 24 00 24 e raccontarvi cosa ha proposto a me la società presso la quale appunto mi così attivo ogni tanto per tenermi in forma, perché mi pare che l'atteggiamento sia stato estremamente professionale. E devo anche dire, Mauro, adesso facciamo tutte le sigle di circostanza, che in ogni caso anche per quel settore non sono state scelte facili da fare e iniziative facili da mettere a terra, perché questo settore è letteralmente in ginocchio, non hanno lavorato, hanno tenuto chiuso per 3 mesi, e anche riprendere l'attività fisica in ambienti frequentati da molte persone affollati non è una scelta facile per la persona, per cui anche per questi ambiti il business tracollerà letteralmente, per cui anche prendere e rimborsare tutti i clienti ed ex clienti, insomma, è difficile da sostenere anche dal punto di vista economico, per cui dobbiamo avere, secondo me, un atteggiamento comprensibile. E adesso però sentiamo che cosa ci dice il nostro esperto. C'è una sigla apposita. Via. Drin drin, edicola risparmio. Ok, iniziamo. Skip alto, 10 secondi, porta le ginocchia sulla linea dell'ombelico, 3, 2, 1, cambia, calciata lenta ai glutei, 20 secondi, porta i glutei verso i talloni. Allora, non c'è bisogno, dottor Pegorin, non so se lei è già in collegamento. Stai già facendo esercizio? Sì, ci sono, sto cercando di esercitarmi. Io sono saldamente alla sedia, devo dire, sono un pessimo sportivo. Lorenzo Pegorin è un commercialista, un esperto del Sole 24 Ore, una firma nota al Sole 24 Ore, ma si sta occupando anche di questo tema, appunto, dei rimborsi, possibili rimborsi per abbonamenti e allenamenti non fruiti. Allora, qui, come forse sai, Deborah, è intervenuto il decreto rilancio, che c'ha tutti quegli articoli lì, qualche cosina si è trovato pure da scrivere per questa materia. E cosa ha detto il decreto rilancio? Che sostanzialmente si può prevedere un voucher utilizzabile entro un anno dalla riapertura, però per fare domanda devi aspettare che il decreto rilancio, il decreto 34, venga convertito definitivamente in legge. Quindi Come al solito. E devi aspettare la metà di luglio più o meno. Però adesso io, siccome qua si ferma il mio sapere e comincia invece l'ampio sapere di Lorenzo Pegorin, cedo a lui la parola. Quindi in questo momento qual è la situazione, dottor Pegorin? Sì, allora innanzitutto buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e buon 2 giugno anche da parte mia. Ora, cercando di prescindere un attimo da quelli che sono i precetti giuridici che hanno ispirato la norma contenuta nel decreto, proviamo a fornire delle istruzioni chiare e pratiche per l'uso, ovviamente partendo dal contenuto normativo. Allora, innanzitutto, cosa disciplina il decreto rilancio? Disciplina il diritto al rimborso degli utenti di palestre, piscine, impianti sportivi in genere che, a motivo, diciamo così, della chiusura forzata degli impianti e dei luoghi, non hanno potuto fruire delle prestazioni per le quali generalmente l'utente aveva anticipatamente versato un corrispettivo. Quindi cosa si rimborsa? Dal semplice abbonamento della palestra alla quota pagata dai ragazzini per l'attività sportiva, quindi il corso di calcio, di pallavolo, di basket, eccetera, per finire con i corsi di nuoto. Questo non è limitato agli sportivi professionisti, quindi no, cioè, qualsiasi, anzi, persino uno come me, voglio dire, refrattario alla palestra, però se avesse un abbonamento potrebbe chiedere il rimborso. È assolutamente il contrario, quindi si rivolge a tutti gli utenti, a tutti gli sportivi dilettanti, a tutti coloro che, diciamo, praticano attività sportiva e che per essa hanno pagato anticipatamente un corrispettivo per il quale poi non hanno fruito dei servizi. Quindi in buona sostanza riguarda sia che questa attività sportiva sia erogata da un ente commerciale, quindi tipicamente le palestre, i centri fitness, ma anche, per fare un esempio, le associazioni sportive dilettantistiche. È importante capire in questo contesto qual è la tempistica, perché il diritto coprirebbe un arco temporale che indicativamente, cioè da decreto a decreto, può essere individuato dal 9 di marzo del 2020 al 25 marzo maggio. Del 2020, maggio, scusa, maggio. 25 maggio 2020, quindi sono circa 76 giorni. Periodo una che settimana però... in più per la Lombardia, sì, sì, l'ho preciso, infatti, giusto perché ecco, noi questa... è giusto precisare che il periodo si fa più lungo in alcune regioni o zone a seconda dei provvedimenti di chiusura, quindi Lombardia e Veneto la chiusura è anticipatamente riferibile al 23 marzo, al 23 febbraio, quindi per quanto riguarda la Lombardia invece abbiamo, come diceva Deborah, una settimana in più per la chiusura, quindi 76 giorni diventano più di 100 giorni, quindi più di 3 mesi. Ecco. Diventa fondamentale, prima parlavate, la tempistica, cioè quando presentare la domanda. Allora, da decreto la domanda andrebbe presentata entro 30 giorni, però dall'entrata in vigore della legge di conversione, che oggi ancora non c'è. Certo. Quindi, ecco, quindi visto che le palestre, no, lo dico subito, per esempio sì, in Lombardia sono riaperte da ieri, è inutile essersi presentati subito lì, il responsabile appunto del centro fitness che frequentiamo con qualche modulo magari, non lo so, inventato a caso, obbligando ad una trattativa per richiedere immediatamente il rimborso. Diciamo che se il gestore della palestra dice no, ancora non sono in grado di poterti accontentare, ha anche ragione nel dirlo, perché lui non ha effettivamente un supporto legislativo per andare avanti. Confermo, è una risposta corretta. Anche se in realtà diciamo la norma andrebbe a dire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi nulla vieterebbe per chi volesse di farla già da oggi, anche se giustamente, come diceva Deborah, noi consigliamo di aspettare il decreto di conversione, perché visto il tourbillon di cambiamenti che ci sono, qui vi confesso che non ho mai visto tante bozze, certo, come su questo decreto, e quindi immagino che probabilmente nella conversione ci sia lo spazio e il tempo per poter modificare ulteriormente questa norma, e quindi istanze di rimborso presentate con troppo anticipo potrebbero poi essere smentite dai fatti, e per i fatti intendo la conversione giuridica appunto del decreto. Tra l'altro, Mauro, mi insinuo per un'altra curiosità, perché ammettendo che adesso, io da quello che so, insomma, all'interno dei centri sportivi sono state allestite tutte le misure di sicurezza, distanziamento, raccomandazioni per non stare a perdere tanto tempo nelle sale tutti sudacciati, appunto, circolare con le mascherine e quant'altro, ma ammettendo che qualcuno non si senta, qua in Lombardia può anche succedere, nella condizione totale di sicurezza, di riprendere l'attività sportiva in un ambiente al chiuso, dottor Pegorin. Ovviamente nel momento in cui si chiederà un rimborso per l'attività non svolta e per la prestazione non utilizzata, non potrà richiedere anche questi mesi in cui deliberatamente ha scelto di non tornare in palestra, perché questo poi attiene alla libera iniziativa individuale, immagino, oppure potrà recriminare anche questa, eventualmente un rimborso di questo tipo. No, è corretta la prima. Neanche se è il verbo giusto, ecco, esatto. No, è corretta la prima, nel senso che effettivamente per il periodo di chiusura forzata il cliente ha diritto a un rimborso oppure a ricevere un voucher, adesso lo vedremo anche meglio nei concetti pratici, ma per ciò che attiene invece al periodo in cui diciamo non c'è stata chiusura forzata, ecco che il cliente non ha più alcun diritto, in quanto è una sua facoltà quella di non accedere più a quelli che sono i servizi, certo, che il centro sportivo potrebbe dare. Su questo mi consentite di aggiungere una cosa, potrebbe anche esserci il cliente, quindi l'utente, lo sportivo che oggi non si sente sicuro di accedere in palestra, quel voucher è spendibile potenzialmente fino alla data di conversione del decreto, quindi abbiamo un anno di tempo, quindi fino al 25 maggio ordinariamente 2021 per la Lombardia, possiamo arrivare fino appunto al 1 giugno 2021, quindi nulla vieta che a gennaio, a febbraio dell'anno prossimo, quando l'utente ne valuterà diciamo la sua sicurezza per poter accedere al centro sportivo, potrà solo in quel momento usufruire del voucher che il gestore del centro gli ha dato, quindi non c'è nessun obbligo di ripartire adesso. Sì. Quando il contribuente, l'utente si sentirà sicuro, esatto, egli potrà accedere al centro sportivo. Ecco, questa istanza, quando appunto abbiamo capito che è meglio aspettare, uno per carità, se vuole tornare in palestra da domani, padronissimo di farlo, può anche chiedere, ma noi stiamo consigliando aspettate, perché poi la norma potrebbe essere magari migliorata, ampliata, non lo sappiamo, insomma è un periodo di grande rivolgimento e di grandi modifiche. Queste richieste comunque vanno presentate in qualche forma particolare? No, perché la norma non detta misure di attuazione, per così dire, non dobbiamo aspettare un formulario o un facsimile di qualche ministero. No, vi confermo che si tratta di una semplice istanza di rimborso. Adesso noi consigliamo sempre la forma scritta con una ricevuta di inoltro, però diciamo la norma non disciplina su questo. L'unica cosa che appunto ci dice è che l'istanza deve essere presentata allegando il titolo di acquisto, quindi banalmente la ricevuta, oppure la prova dell'effettivo versamento, ad esempio il bonifico o diciamo altra prova che il pagamento è avvenuto. Tra l'altro, Mauro, ci sono anche in questo campo situazioni molto differenziate, perché c'è chi, per esempio, come ho fatto io, pago diciamo un abbonamento di lunga durata, lo pago quasi integralmente in anticipo, e quindi magari in questo caso con il centro fitness negozierò in un certo modo il rimborso di questi mesi, di queste settimane non fruite. C'è chi invece paga a rate, dottore, e quindi anche in questo caso bisognerà capire se il centro fitness ha sospeso in questi mesi le rate che il cliente versava regolarmente. C'è anche una terza opzione: chi paga la palestra facendo un prestito, perché in genere il pagamento rateale viene consentito attraverso l'intermediazione di società del credito al consumo, e quindi sostanzialmente si fa un prestito, poi la rata va pagata non direttamente alla palestra, ma la società di credito al consumo con la quale appunto questo prestito si è stipulato. E conosco situazioni appunto a Milano in cui la palestra, il centro fitness, si è fatto direttamente interlocutore per parlare con queste società e sospendere momentaneamente il rimborso della rata, per cui è una situazione proprio abbastanza eterogenea, tale per cui, esatto, per cui forse è bene aspettare effettivamente di capire il provvedimento approvato, no? Che cosa ne dice? Sì, noi consigliamo, come abbiamo anche scritto nel giornale, di aspettare la conversione in legge, perché ad oggi qualsiasi passo potrebbe essere prematuro. Poi effettivamente, come diceva Deborah, oggi i gestori si muovono un po' a macchia di leopardo, e quindi ognuno, anche in base a quelle che sono le risorse economiche e finanziarie che purtroppo il periodo ha eroso a volte in maniera anche abbastanza repentina, ognuno poi diciamo trova il giusto compromesso anche con il singolo utente. Faccio un esempio a più ampio respiro: le associazioni sportive dilettantistiche, anche prima diciamo del provvedimento di legge, attraverso il buon senso avevano trovato degli accordi per scontare ai ragazzini la parte di quota pagata anticipatamente quest'anno, e a cui gli utenti non hanno potuto usufruirne proprio per i motivi che abbiamo detto, insomma, riguardo alla chiusura. E quindi questo va un po' a scontare quella che sarà la quota della stagione sportiva prossima, quando tutto probabilmente riprenderà. Una sola cosa, dottor Pegorin: questa scelta voucher o rimborso, poi bisogna che ci si metta d'accordo tra gestore e cliente, tra gestore e utente, oppure il gestore decide e quella sarà la sua decisione non sindacabile? Qui, se è pur vero che c'è chi sostiene che è nel diritto del consumatore quello di poter pretendere rimborso, la norma così come è scritta non sarebbe proprio così, nel senso che essa prevede che sia il gestore a decidere cosa fare, in quanto quest'ultimo, in alternativa al rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore. Quindi oggi, ancorché qualche associazione di categoria è un po' sul piede di guerra sotto questo profilo, in linea teorica è il gestore che decide un attimino cosa fare, e normalmente vedo che l'esperienza pratica di questi giorni sta insegnando che il gestore tende il più possibile a barattare il rimborso in denaro con un voucher, e quindi con ulteriori servizi che il centro potrà erogare nel prossimo futuro. Faccio un inciso su questo aspetto: la norma dice un voucher da utilizzare incondizionatamente, cioè questo, a mio modo di vedere, significa che questo voucher può potenzialmente essere impiegato per fruire anche di servizi diversi rispetto a quelli a cui originariamente si riferiva l'abbonamento. Prima parlavamo delle palestre, ad esempio se il mio abbonamento si riferiva a un corso di fitness, oggi a parità di costo con il voucher potrei seguire il corso di nuoto, di ballo acrobatico, di nuoto. Quindi un po' di flessibilità. Flessibilità mi sembra, agilità anche direi in questo caso. Ringraziamo il dottor Pegorini. Io temo, Deborah, che non sarà l'ultima volta che ci occuperemo di questi rimborsi barra voucher delle palestre. A me fa piacere, delle attività perché devo dirti che alcuni dei miei istruttori in palestra ci ascoltano e io li saluterei anche. Allora, fatti questi saluti, ringraziamo ovviamente il dottor Pegorini e passiamo tra pochissimo, passeremo invece a chi si trova nella impossibilità al momento, secondo la normativa italiana, di disporre un rimborso, cioè le questioni relative ai viaggi, ma questo dopo le borse. Soldi buttati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Cara Deborah, ti ho già detto che questa, in questo momento è la mia canzone preferita, Living in a Ghost Town, sperando di tornare a vivere in una città normale presto. Allora, la prossima canzone quale sarà allora? Ma quella che ci devo pensare. Di toglierci di mezzo questa. Ci devo pensare, speriamo che non sia il serpente corallo, per così dire. No, esatto. Allora, ti vorrei presentare, non in ordine alfabetico per cognome, ma in ordine di galanteria, invece, i nostri due esperti del momento, perché abbiamo in collegamento Silvana Durante, avvocato di Astoi Confindustria Viaggi. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, non è la prima volta che lei è nostra ospite, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, è vero. Accetto volentieri il vostro augurio di bentornata, eccomi qua. E dall'altra parte, cioè sull'altra linea, la linea numero 2, c'è Carmelo Calì, legale di Conf Consumatori. Buongiorno, buongiorno avvocato Calì. Buongiorno a voi e agli ascoltatori e alla collega. Tra l'altro, a parte il fatto che è dall'altra parte del telefono, ma anche dall'altra parte dell'Italia, perché l'avvocato Calì è sempre dalla bella Sicilia, che segue tutte queste emergenze di viaggio, lo fa da un sacco di anni per Confconsumatori e ci aiuta molto spesso anche nel gestire tutte le questioni che abbiamo nel retro bottega, caro Mauro, no? Quante gliene mandiamo l'avvocato Calì? Effettivamente capita spesso, specialmente per quanto riguarda i servizi aerei, per così dire, che sono sempre una nota dolente. Allora, cara Deborah, qui adesso non so, verrebbe da fare l'accusa e la difesa, la ringa di uno dei legali e poi la replica dell'altro, perché come abbiamo spiegato all'inizio di puntata, qui la nostra norma italiana dice una cosa e dice voucher e basta, e state contenti così, al posto, se non avete potuto viaggiare, questo è il risarcimento che viene previsto dalla norma. Ma la Commissione Europea e anche la nostra antitrust hanno detto no, bisogna prevedere anche il rimborso. Io adesso ho riassunto male, naturalmente gli avvocati mi tireranno subito alle orecchie e lo accetto volentieri. Non so, chi vuoi sentire per prima, Deborah? Calì o Durante? Allora, comincerei con l'avvocato Durante, perché chiaramente noi siamo sempre molto dalla parte dei consumatori, e però è anche vero che in questo momento il settore del turismo, Astoi insieme ad altre organizzazioni, ha creato anche, diffuso un manifesto del turismo italiano che in questo momento è letteralmente piegato dalla crisi, con anche una scarsa visibilità sul futuro. Per cui io credo che tutto il settore abbia molto a cuore la volontà della clientela, ma è anche chiaro che si trova nella difficoltà di rimborsare completamente tutti i viaggi annullati, perché è proprio nell'impossibilità di farlo, visto che sono aziende che devono essere messe nella condizione di andare avanti, pagare i dipendenti e quant'altro. Per cui, avvocato Durante, inizio con lei, l'ho fatta io la difesa del vostro settore, perché è un settore al quale teniamo molto e del quale comprendiamo le oggettive difficoltà nelle quali appunto vi trovate in questo momento. Come state gestendo le richieste della vostra clientela? La ringrazio, se ha fatto effettivamente un'introduzione precisa e una difesa chiarissima. È esattamente come dice lei, mi permetto anche di precisare che effettivamente siamo dalla stessa parte, cioè siamo anche noi comparto del turismo dalla parte dei consumatori, e non potrebbe essere diversamente, perché le aziende del turismo vivono e lavorano grazie ai viaggi che vendono ai nostri viaggiatori, ai consumatori italiani. Però ha detto bene lei, è un momento di particolare gravità. La situazione la conosciamo tutti, le aziende sono ferme da circa la metà di febbraio, hanno completamente azzerato la produzione, e mi permetto di dire che tutto il comparto del turismo italiano genera circa 13 miliardi di fatturato. Quando parlo di tutto il comparto faccio riferimento ad agenzie di viaggi, a tour operator, alle società che organizzano eventi, quindi ripeto proprio tutto il comparto del turismo. 13 miliardi di fatturato, che significa in termini occupazionali oltre 500 milioni, scusi, mezzo milione di persone, 500 mila posti di lavoro. È una situazione veramente drammatica quella che sta vivendo il turismo italiano, e quindi non avendo le risorse, non ci sono risorse perché la produzione è ferma, non solo, ma si consideri anche che i viaggi del turismo organizzato prevedono una programmazione che inizia ben prima, ovviamente. Per cui la provvista che le aziende del turismo ricevono non la trattengono in casa, perché ovviamente devono pagare, prepagare. Voi pagate i vostri fornitori di servizi, certo. Assolutamente. Per cui non sono somme che sono rimaste nella disponibilità di queste aziende. Le aziende hanno pagato, per cui è quasi impossibile, anzi tolgo il quasi, è impossibile restituire delle somme di cui non si ha più la disponibilità. E comprenderà, cioè si comprende facilmente che andare a farsi restituire il denaro versato verso operatori esteri, magari in paesi nei quali il periodo di chiusura non è coinciso con quello italiano, che magari hanno riaperto alla possibilità di realizzare viaggi, diventa impossibile farsi retrocedere queste somme. Ecco il motivo per il quale noi non riteniamo che ci sia stata una violazione dei diritti dei consumatori, e men che mai riteniamo che ci sia un contrasto tra le norme. È vero quello che lei ha detto circa la disposizione della nostra legge, della legge interna, però mi permetto di dire, e poi magari il collega su questo mi potrà rispondere, in realtà diciamo che il legislatore non ha disciplinato il dopo, però questa mancata previsione in realtà non si traduce, ripeto, in una sorta di compressione o di violazione del diritto del consumatore, perché molte aziende hanno già reso assolutamente flessibile lo strumento del voucher, hanno prolungato la validità a prescindere da quello che è l'attuale dettato normativo. Il punto è che bisogna mantenerlo più aperto possibile, questo voucher, ammettendo che i clienti decidano di utilizzare questo strumento, perché non possono sicuramente oggi decidere di fare esattamente la tipologia di vacanza a cui hanno rinunciato. Quindi io non vado per un weekend all'Elba, non posso assolutamente dire in questo momento che entro 30 giorni sarò in grado di fare lo stesso identico weekend che avevo ipotizzato e per il quale appunto sono stata indennizzata con il voucher. Mauro, che cosa ne pensi? Guarda Deborah, intanto ti voglio segnalare che abbiamo una platea di ascoltatori che hanno i casi più vari. Possiamo sentirne qualcuno se vuoi, però, devi passare la parola all'altra parte, cioè sì, all'avvocato Calì. Mettiamo fieno in cascina, come si dice. Ottimo. Allora guarda, Tiziano da Milano che dice: non è stato rimborsato pur avendo dato disdetta prima dell'inizio della pandemia. Tiziano, è così? Buongiorno. Sì, esatto. Io ho comprato un biglietto di un traghetto, siamo due coppie, sì. E giovedì 13 febbraio ho dato la disdetta il sabato 7 marzo, adesso non so se eravamo in pandemia o meno. No, no, doveva ancora venire la nottata, esatto, dell'8 marzo, ecco, prego. Esatto. Sul sito della Grandi Navi Veloci c'era il recesso che a seconda dei giorni prima del viaggio si dava, si pagava una certa penale e ti rimborsavano l'ammontare, no, meno questa penale. Però non le l'hanno erogata. No, loro dicono, le diamo il voucher. Il problema è questo, perché poi io ho anche proposto su consiglio di Altro Consumo, no, l'associazione dei consumatori, siccome siamo due famiglie, non so se l'altra famiglia tornerà ancora, io vorrei un buono, uno frazionabile, in modo che se io vado da solo non utilizzo tutto l'importo, non è giusto che io debba perdere. Certo. E poi anche open come data, perché io magari faccio un viaggio all'anno, questo scade nel 2021, mi sembra, il voucher non è detto che riesco a utilizzarlo. Non mi sembra di chiedere la luna. Ma sì, su questo non... Io mi ero appellato al contratto, perché se uno firma un contratto che c'è scritto che c'è, paga una penale, viene rimborsato, secondo me questa cosa qui, visto che è successo prima del coronavirus, vale, secondo me non, il contratto, dice lei. Allora, non ho nessun argomento in mano, però continuo a tirare il lungo. Credo che gli avvocati abbiano sufficiente materia, noi ci fermiamo qualche istante perché c'è il traffico. Due di denari. Cara Deborah, se sei d'accordo, a questo punto io passerei la parola a Carmelo Calì, all'avvocato Calì. Sì, abbiamo ascoltato, assolutamente, che ha avuto il destro, però diciamo così, dall'ascoltatore che abbiamo ascoltato appena prima dell'interruzione per la viabilità. Avvocato Calì. E gli raccomandiamo anche proprio un focus sul tema delle compagnie aeree, perché qua il terreno è piuttosto scivoloso. Io per esperienza personale vi dico, una grande compagnia mi ha dato l'opzione rimborso, voucher, guardate, dico, non sono in grado di ripartire, datemi il rimborso, e ancora mi scrivono una volta a settimana chiedendomi che cosa vuoi, il rimborso totale o il voucher, io chiedo il rimborso e ancora i soldi non li ho visti. Caro avvocato Calì. Allora, noi riteniamo che la soluzione normativa adottata sia ingiusta e va a penalizzare fortemente i consumatori. Premetto che comprendiamo benissimo le condizioni delle aziende che operano nel settore, sarebbe da folli non considerarle, ma sarebbe stato altrettanto giusto sentire e comprendere le ragioni dei consumatori e delle famiglie che avevano acquistato i vari servizi, pacchetti turistici o voli. Ora, noi riteniamo che la soluzione del voucher sia oggettivamente, perché non garantisce quello che noi abbiamo definito l'effettività del servizio acquistato. Per essere molto chiari, sui pacchetti turistici, se mi viene offerto oggi il voucher sulla somma che io ho pagato e poi fra 6 mesi, un anno, quando io andrò a acquistare un pacchetto turistico di qualità equivalente a quello che avevo, mi si dirà: sì, però guarda, adesso c'è la crisi oppure qualche altro motivo, questo pacchetto costa X in più. Quindi scatta, oltre al danno, la beffa per il consumatore. Nessuno ha garantito che con quel voucher venga acquistato un pacchetto turistico della medesima qualità. Stesso discorso sul trasporto aereo, perché se io ho comprato una tratta Roma-Milano e mi viene rimborsata la somma e fra 6 mesi acquisto sempre biglietto Roma-Milano, mi si dirà che quel biglietto costa il più per una determinata somma e quindi dovrò anche in questo caso integrare. Quindi, poiché il voucher oggettivamente non garantisce l'effettività della prestazione acquistata, è un rimborso già al ribasso che noi non possiamo condividere. Certamente poi, ad esempio, sulla questione dei pacchetti turistici dobbiamo essere chiari, perché per esempio nessuno garantisce un'altra cosa, che è quella prevista dall'articolo 38 del codice del turismo, che è la possibilità per il consumatore di cedere il contratto ad altri. Ora io dico, non vedo perché questa non è stata norma, non è stata abrogata, non è stata eliminata, però nessuno ha previsto che il voucher possa avere questa possibilità. Quindi quando il consumatore dovesse dire: poiché ho questo voucher, lo trasferisco come mi consente il codice del turismo a terzi, magari il consumatore si troverà di fronte all'obiezione: no, il voucher non si può sostituire. Quindi ancora qui i voucher si rischiano di portarci in una conflittualità che ritengo che non serve a nessuno. Io ritengo che oggi le soluzioni migliori devono essere quelle condivise, non quelle che possono, diciamo, scartare una possibilità che è quella di garantire i diritti del consumatore. Ritengo che se si ragiona su una serie di soluzioni condivise da tutti, io penso che si evitano tutta una serie di conflittualità che rischiano di scattare. Anche di futuri contenziosi, mi sembra di capire che, secondo l'avvocato Cari, il voucher non rappresenta uno strumento adeguatamente cautelativo di soddisfazione per quanto riguarda i consumatori. C'è Anna da Roma, cara Debora, che ha proprio una questione aerea da sottoporci. Allora ascoltiamola. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi. Allora io e mio marito di solito viaggiamo non tanto per turismo quanto per andare a trovare all'estero i nostri figli. Uno vive in Inghilterra e uno vive in America. Sì. E allora avevamo un biglietto, due biglietti pre-Covid. Allora il biglietto inglese ci è stato rimborsato dalla British Airways nel giro di una settimana, mentre con l'Alitalia destinazione Miami abbiamo richiesto il rimborso totale. Ma lo sa perché? Perché tanto noi comunque ci andiamo sempre in America, avremmo voluto il voucher, ci saremmo accontentati del voucher, solo che loro volevano 60 euro a tratta a persona, cioè 240 euro, e non vedo perché. Non è giustificato. Cioè, in che senso? Per avere l'opzione voucher? Brava, di un anno per una tratta internazionale, 60 euro a tratta a persona. Per cui ho detto: allora a questo punto voglio il rimborso totale, e ci sono presi un mese di tempo e mi faranno sapere. Dovevamo partire. A me invece ancora non arriva. Sì, infatti. Sì. Vabbè, e quindi anche io ho fatto chiarezza sulla compagnia con la quale mi sto un po' scontrando. Impermalendo, secondo me, ti stai un po' impermalendo, cara Debora. Ma lo sanno, perché vuoi sentire un altro ascoltatore o vogliamo sentire Weiner, il parere? Volentieri. Weiner, tra allora. L'altro, prego. C'è anche Weiner e poi c'è anche un ascoltatore che ci ha scritto che aveva previsto con la sua famiglia una bella vacanza negli Stati Uniti tra fine agosto e inizio settembre. Mia moglie ha perso il lavoro, non abbiamo più la possibilità di affrontare la spesa, quindi lui dice: anche volendo il voucher io in questo momento non sono in grado di dirlo se mai potrò fare questa vacanza. Per cui qua le situazioni sono tante. Sentiamo Weiner, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci velocissimo dica. Che siamo in chiusura. Velocissimo, io in dicembre ho prenotato per 4 persone un viaggio in Malesia e Singapore, prenotato tramite un'agenzia locale, quindi di persona sono andato, abbiamo prenotato i voli, abbiamo prenotato due hotel, uno in Malesia e uno a Singapore, dopodiché sono in attesa di sapere cosa facciamo, perché ho dato solo un acconto del 10%, quindi un viaggio importante, il 10% loro ce l'hanno in mano, non hanno altro, però io non ho in mano i biglietti aerei, loro dicono che li hanno prenotati e non ho in mano niente, in parole povere. Cosa possiamo fare? Guardi, non le va neanche male, perché c'è addirittura qualche agenzia, adesso l'avvocato Durante non si offenderà, che preme per chi deve fare dei viaggi, in realtà per essere totalmente pagata. C'è chi chiede proprio il saldo anche di viaggi che non si sa se molti faranno. Avvocato Durante, chiedo a lei quello che risponda a chi sceglie di rispondere tra tutti coloro che abbiamo sentito. Cerco di rispondere velocemente più o meno a tutti. Sì. Parto dalla penultima. Sì, mi sembra alquanto strano che sia stata richiesta una somma di 60 euro per l'emissione del voucher, perché in realtà così non si comprende, non può essere. Quindi se la signora ha ricevuto questo tipo di richiesta, effettivamente è una richiesta anomala. Per quanto diceva il collega ha perfettamente ragione, però vorrei precisare due aspetti. Anche se ci fosse un rimborso in denaro, non è detto che quel rimborso in denaro possa equivalere all'acquisto di un prossimo servizio il prossimo anno o fra 2 anni o quando sarà, perché comunque ci potrebbe essere un minor valore del denaro a seguito di questa pazzesca crisi. Quindi non cambia nulla, non muta nulla. Il voucher rappresenta un titolo di credito, mi faccia dire in termini colloquiali, è un titolo di credito improprio, diciamo, atipico, però riconosce una somma di denaro che può essere spesa presso la programmazione del tour operator, qualunque essa sia, quindi potrà acquistare utilizzarlo per il medesimo pacchetto di viaggio piuttosto che per un altro servizio. Ripeto, gli operatori turistici hanno reso questi voucher molto flessibili. Possono essere frazionati, possono anche essere ceduti. Ha ragione il collega nel momento in cui dice: ma per quale motivo non è stata prevista la cessione? Non è stata prevista perché in realtà in una decretazione d'urgenza e anche poi la legge di conversione comunque ha dovuto adottare dei passaggi molto rapidi, e non è stato previsto solo per questo, ma i tour operator ben sanno che qualora ci siano le condizioni per poter essere ceduto, non ci stanno particolari problemi in tal senso, saranno valutati ed eventualmente il voucher sarà utilizzato dal cessionario che il viaggiatore vorrà indicare. Diversa dal viaggiatore. Allora vi devo interrompere perché siamo davvero in chiusura, è scaduto il tempo, però invito coloro che non sono riusciti a mettersi in contatto a scrivere alla nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. Ringrazio l'avvocato Carmelo Calì, l'avvocato Silvana Durante e cara Debora, noi torniamo domani. Buona giornata.